parte di un'altra ditta, e anche uno che mi si è sbattuto a me l'altro giorno in Viale Umberto, perché si è allargato per sorpassare una macchina che c'era in parcheggio lì di fronte al Banco di Sardegna, praticamente dietro la provincia. Si è allargato per non toccare quella macchina che era parcheggiata e si è sbattuto il mio paraurti. E poi gira gira voleva che gli facevo io l'assicurazione. A gente le se ne manca pagata cosa. E niente, da cui ho visto che si è seduto in macchina e se n'è andato, ma se no dietro c'erano i vigili, facevamo subito misurare, non c'erano problemi. Però vedi, mi ha toccato a me, se volevo dicevo, no, va mi vai, la sicurazione Barbara Urti, e ce l'ha giù da casa d'acchi, io so via che la perdo, non me la fango della macchina giuia, non mi sembrava, diciamo così, giusto infierire su quello lì che si aveva rotto la macchina, ma mi ha scocciato quando poi quasi quasi pretendeva che io gli facessi l'assicurazione. No, perché nel Viale Umberto ce l'hanno l'abitudine, no? Si proteggiano sia lì, sia vicino al tabacchino, sia più giù, quello che c'è nella corsia di destra, c'è l'ostacolo davanti, non è che frenano, o suona, oppure disegni quelli in alto. Comunque un consiglio, scusate attimino, se stavo monopolizzando, controllano che voi state assicurando, adesso è molto semplice, fa una richiesta di risarcimento, 160 giorni non c'è una controprova, l'assicurazione paga, stai attento, blocca subito, parla della tua assicurazione, dice non pagate niente, o se qualcuno faccia qualche denuncia, qualche richiesta. No, ecco, paga, no, ma quello lì, se sia per quello della 1, sia per quell'altra ragazza che la stessa cosa, che qui non si aveva fatto neanche tanto danno, mi si è scappucciato lo specchietto retrovisore perché si è allargata poco a poco e si è sbattuta lì, perché se mi sbatto io glielo buco davanti, gli buco il vetro, e invece si è sbattuta lì al gancio e gli ha fatto il buchetto, e come ha parlato ne è uscito il coperchietto di dietro dello specchietto, ma io sono andato all'assicurazione, ho avvisato e mi hanno detto che è tutto a posto. Facciamo riprendere il franchetto e poi facciamo girare la caduta. Mi ha coperto Mario, Monello Mario, mi ha coperto, no niente, Robe, lo faccio un attimino il bianco che mi stava squillando il telefono, un attimino già riprendo subito. Ma no, ti ho coperto, si è rilanciato a me, stavo parlando con me fa quadrato, e tu mi dici che ti ho coperto, non può essere. No Mario, sai, stavi parlando, io automaticamente sono stato io che ho chiamato a Roberto di che stavo facendo una diretta bianca, Roberto se mi avete non mi ha copiato o non mi ha sentito perché tu arrivi più forte, tutto qua, non c'è problema Mario. Allora in questo caso se tu Monellino mi volevi sovramodulare con Roberto, ed è da giù poi sulla caretta, visto? Va bene, dai, non c'è problema, buona carica, buon tutto. Ma sto scherzando. No, proprio giustamente sto rispondendo al telefono, lo riprendo subito, dai, un attimino di pazienza. Riprende Roberto. Capo, aspetta, facciamo un attimino di bianco, la chiamata generale sul 21, così non monopolizziamo il canale. Attenzione, canale 21 che vuole entrare con la buonasera, avanti. Oh, Natalino, l'avete sentito che le devo chiedere la roba? No, io non l'ho sentito. Ma Luca ancora ci sei? Io sto scaroppiando un panino, se vi interessa, se sentite i rumori strani. Avanti Mario. Sì, appaga, no, non ce n'è problema. Comunque, lì, Viale Umberto, dovrebbero mettere almeno qualche cartello di divieto di sosta, perché sul marciapiede si protegge troppa gente e ho notato che in questo periodo un bel niente se c'è i bidendi a Senna in Ghiri, in Viale Umberto, perché quando vanno a allargarsi per evitare l'ostacolo si buttano sull'altra corsia e se va nella macchina a fianco ma così mi avvisa anche se c'è i bidendi. lascia fare, anche noi dobbiamo lavorare, Mario, ma tu ti stai preoccupando, c'è tutto lavoro qua. Pappa, io già lo so che è tutto lavoro per voi, magari venissero tutti da te, no, perché siete in tanti anche voi, e vabbè, tutti quanti dovete mangiare. No, tutti da me non fa, perché se no devo chiamare la tragedia e aiutare, già basta ogni tanto qualcuno, no? Pappa Gappa. Aiuto, spegnete Baracchini, dai, forza, chiudete tutto! Faccio da bravo, come lo devo chiamare? Mastro Gebetto, quello che ha costruito Pinucchio, o lo devo chiamare Lollaro? Sì, io credo che lui sì, perché non l'ho costruito io, non lo so fare io, Pinucchio. Vabbè, sono entrato, vi ho sentito, adesso vado a fare la luce e lo puoi accelerare. Vi saluto, ciao ciao ciao ciao, se non la sotto poi vi chiamo e non sono ancora pronto. Sono salito appositamente per lavarmi, poiché nel frattempo mia moglie sta preparando la cena. Ci sentiamo, ciao Robè, vi ho sentito, ci sentiamo un altro momento, ciao Mario, ma altrettanto con te. Salutoni, riprendi pure Robè. Ehi Mario, scusa, Giulio, quando vuoi non ci sono problemi, già lo sai, con te, soprattutto. Ok, avanti Mario. Ciao Dollaro, buona carica, buon tutto. E ce la risentiamo alle prossime, va? Ogni tanto quando entrano gli amici a salutarci ci fa solo piacere. Vai Luca. Luca non risponde, vai Falchetto, sei già finito la chiamata. Stai mangiando, cosa dici tu? E noi fagioli, le lenticchie, così. Bobo, siamo rimasti in due, quadra. Pochi mamoni, così dici. Fare il positivo. Allora non ci sia tutta la compagnia, quelli che ci sono sempre, non ne sento neanche uno oggi. Ehi, lo sai com'è? A volte sono un po' più stanchi, a volte sono un po' più messi male. E qualche volta si affacciano prima, qualche volta si affacciano addirittura dopo aver caricato. Perché cosa strana, non ho sentito manco doppio ronchi di solito. Quando stacca che sta rientrando chiama. Vabbè che Gianni lui finisce mi pare alle 7, verso le 7 e mezza lo sentivamo. Diciamo adesso è già un po' più tardi, magari non sarà arrivato a casa, ma cioè non sarà arrivato a casa, ma starà lavando, boh. Non ho sentito né Natalino, né Pierpaolo, né Toso, né Giuseppe, che sono, l'ho sentito l'altro giorno in sfuggita. Capri sono almeno una settimana che non ascolto. Ma io per quello già non mi preoccupo, qui le porte sono sempre aperte, vabbè, quando vogliono entrare la porta è aperta e possono entrare come vogliono loro. Idem con patate per me, non ho problemi con nessuno, già lo sai, già non prego nessuno in baracchino. Io tantomeno, se mi dovessi arrabbiare per il baracchino è finita, quando c'è qualcosa, ok, sì, lo spengo e niente, e ci risentiamo alla prossima. E cosa, Salvatore Maestrale, senti tu sì. No, addirittura mi doveva telefonare da ieri, ma invece non mi ha chiamato, boh. Ci siamo sentiti quando? Ah, presto, ci siamo sentiti alle 3:30 perché doveva prendere un pezzo per una macchina, metto se facevo una telefonata per fargli fare lo sconto, poi l'ho richiamato più tardi io per dirgli che era tutto a posto, detto che forse saliva da me che doveva di farmi un lavoretto per la macchina, vabbè se saliva tanto non era la macchina, per cui meglio che non sia salito. Ho sentito Natalino stasera, capitato da me in officina, infatti volevo avere delle informazioni a riguardo della macchina sua per vedere se era qualche novità. Gappa, no, io purtroppo quando vengo quasi quasi non abbiamo manco tempo di chiacchierare perché o tu sei impegnato o io c'ho da fare e così che niente. Ha giù mi fratelli a tuo figlio, l'ho dovuto abbracciare con la piscina e fa di me. cosa deve fare, scusa? Se non lo fa adesso che c'è 19 anni, quando è che lo fa? Quando è vecchio? Ma sono contento per lui, per la ragazza e per te, che anche sempre non me la soddisfazione avere un figlio che ha una ragazza seria, che ci vanno d'accordo. Brutto se avessi avuto altre compagnie di altri generi, a quel punto mi sarei preoccupato, ma figlio e sono femmine già hanno dato tuo verbo. Gappa, è già così già. Già è così, già va tutto bene. Vabbè, diciamo che già va tutto bene. O Iulia, se no saremo belli che rovinati. Ciao, fanno compagnia delle compagnie estrasessuali, parliamo, no? Ma non femminili, non si è mai compreso. Guarda che già ho capito, mi sono occupato da terapisi, no? Perché a quel punto voleva che ne stava piccolino, non è così Mario? Ma su quello lì già è stato sempre addestrato bene da piccolino. Già non ha legge qua quelle cose. Io sono garantito, avendo una situazione del genere, cacchio, non lo so come reagire io. C'è che fare di tutto per farlo raddrizzare, non mi credo. Sai, ma quando ho conosciuto io, allora, io ho conosciuto una persona di Nuoro, che aveva la macelleria. Non ti dico nome, non ti dico dove, però qui a Sassari ci hanno avuto questo figlio maschio e purtroppo la sua natura era di quell'altra maniera e non ne voglia ne va né casa né là, non lo sappia niente, se lo dobbiamo ammazzare o si lascia fuorire la cosa come te la vedi. Aspetta, ho sentito qualcuno che vuole entrare, avanti chi vuole entrare? Ho sentito un colpo importante, un po' più basso di te prima di parlare, vabbè, non vuol dire, non ne ha voglia di entrare. No, vabbè, sono situazioni brutte, è meglio mai viverle quelle situazioni. No, io ne conosco tante di famiglie che hanno avuto situazioni così, qualcuno l'hanno presa bene, anche famiglie benestanti, molto benestanti, diciamo, che hanno un figlio, c'è anche sistemato nell'associazionismo di queste persone qua, comunque, diciamo, ognuno a casa loro, io non ho niente a che vedere con quella persona. Vabbè, è come quelli che hanno la disgrazia di avere un figlio drogato. Allora, e quella lì non è un'altra disgrazia lo stesso. No, io per tutto quanto quello che c'è oggi in giro mi ritengo abbastanza fortunato. Io lo so, infatti, io sono contento quando un ragazzo più o meno dell'età di tuo figlio sarà una ragazza, perché è un'età critica, quando arrivi dai 17 anni in su, diciamo dai 16 anni in su, fino ad arrivare ai 23-24 anni è un'età molto molto critica, io te lo dico per esperienza, per questione di ragazzi, per questione di sport, c'è proprio quella fascia d'età, ed è un'età molto critica, se tu trovi un ragazzo che si sistema con una ragazza, tu lo vedi molto più tranquillo, più rilassato. Quando invece rimane in compagnia di greffette e cose così, buttato per strada e cose del genere, a quel punto devi starci molto ma molto attento, perché molte persone sono finite male proprio così, hanno iniziato da lì, da fumare piano piano e poi dallo fumo suicidi alle cose più gravi. Gappa, mio figlio neanche fuma se per quello. Anzi, mi diciamo sempre perché molte volte capita che siamo vicini, come quando si siede in camion e quando mi mette a fumare si apre subito il finestrino e mi dice cosa. Io te l'avevo potuto fare a bocca, non mi gridi. E finirà! Certo, ma te vai del intossicato, lo hai drogata, ma di 9 anni e devi intossicare tu. Ammazzati tu, quando vedo non l'avevo fumato. Gappa, già si apre il finestrino, vabbè. Si apre il finestrino, mette la testa fuori e così a quando arriviamo balla anche con i pinguini. E così si cancare già la lecce, vabbè. No, vabbè, guarda, tu c'hai una brutta abitudine, ho visto fumi anche parecchio. Possibile non sei mai riuscito, non dico a smettere, ma a ridurre un pochettino, cacchio mica è brutto mi male. Gappa, vediamo se sono entrati. E rimette su tuo figlio, no? Allora, no, che lo sa disegni. No, io non so fa bocca quando fuma, di la punizione doveva dalla sabba per il finestrino. E tu invece con l'aria normale, lo vedo per la figlia siluetto, dici. Beh, consigli che gli dai. Hai detto che non si può fumare nei luoghi pubblici, tu sei dentro un luogo pubblico. Ma no, io guardo che non ci mio. Se non li piazzi, hanno a piedi. Io ti fai un tubo, ti muovi uno scarico alla rete, come Mario. Trappa di positivo. A proposito di fumo, non so se hai letto le spese per il G8, ti è capitato? È che non sono riuscito, ma l'ho messo da parte del giornale, c'erano le spese fatte che hanno fatto per il G8, non le lette? No, negativo. Lo sai, Mario, quanto hanno speso di posacenere? Dimmi una cifra esagerata. Boh, 10.000 euro. 20.000 euro di posacenere, teoricamente non si dovrebbe fumare in quei posti perché è un'area pubblica. 20.000 euro di posacenere, avrebbe esito. KK, è meno male che dovevano comprare solamente due portaceneri, metterli all'ingresso in modo che tutti quanti spegnessero la sigaretta e entrassero dentro senza fumare. Allora, una cosa assurda, adesso non mi ricordo tutte le altre spese, ma ci sono spese da parte, cioè questa è una di quelle più eclatanti, però 20.000 euro tiene presente la spesa più bassa, più limitata, ma ci sono spese di 150.000, 200.000, tessuti non so per che cosa, per addobbare, non so cosa, 150.000 euro, tessuti per vestire le hostess, non è che li compare già in abito, nel senso tutti quelli uniformi, per dire come fanno per i militari, no, gli hanno comprato il tessuto e fatto fare apposta, non so, roba di 300.000 euro, cifra da paura. A me mi sembra che sono tutte robe che loro non hanno speso, manco mille lire per quella roba lì, capito? Perché sono sicuro che tutte quante quelle cifre lì sono non gonfiate, no, super gonfiate, perché poi sul in tasca chissà quanto se ne hanno messo, altro che G8 era. Ciao, non so, ti fai fare la fattura a 20.000, gliene dai 10.000, tu e te li dividi con quello là, è normale quello, dai, in Italia altro che lì sono infatto. K di positivo, ma cioè la gente, siamo nel 2010, la gente è sempre più stufa di sentire tutte quante queste stronzate, speso quello, speso quell'altro, ma da voi cosa, ma nulla. E messo tutti gli altri denari, ieri ne spendevano 1.000 e ne facevano figurare 20.000, ma pulisce di Buscecca da Edo, anche in Givi hanno fatto una grande frittata, hanno fatto. Poi cavolo, quando vengono denunciati perché sono implicati in corruzione, perché sono implicati in truffa, perché sono implicati in malagiusti, gli racconti la faccia, allora poi piangono, dicono che non è vero. Cioè come fai? Cioè la gente se ne accorge, non è stupida. Tu a me mi pigli per il culo, Roberto, mi pigli una volta per il culo, la seconda volta non ci riesci. Non lo so, purtroppo noi abbiamo una brutta fama nel mondo. Gli italiani sono una bella gente, simpatica, spiritosa, ma sono una massa di truffatori. Noi italiani, mi metto in mezzo io, tutti quanti, purtroppo siamo così, è una mentalità, la furbizia degli italiani è conosciuta in tutto il mondo, cioè in altre nazioni cose che combiniamo noi ti arrestano subito. In Giappone quello un ministro che dei trasporti, non so che cosa, per dire una cosa, c'è quell'architetto italiano Renzo Piano che ha progettato la sala d'attesa dell'aeroporto di Osaka o di non so di Nagasaki, non me lo metto di una città di Tokyo, una cosa enorme, e ha offerto la cena, come si chiama, l'architetto Renzo Piano ha offerto la cena a tutte queste persone, ai ministri, subito una cosa, uno scandalo nazionale, ha dovuto dare le dimissioni per una cena offerta, perché ha invitato a cena il ministro, l'architetto che ha progettato tutto per festeggiare, non lo doveva accettare secondo le leggi loro, subito ha dovuto dare le dimissioni. In Italia altro che cena a Bigliani. In Italia è tutto un casino, no? A me mi fanno ridere quando se la pigliano contro gli evasori fiscali, perché noi stavo al telegiornale un passaggio visto e stavano parlando degli evasori fiscali e che avanzato li sono entrati su di più. però beccano sempre il poveraccio. E chi deprime Israele, che quando si deve ne fa un travaglio, cercano tutte le vie possibili, immaginate per farlo spendere i soldi. Dice no, che dobbiamo accappare e scaricare l'IVA, devi fare questo, devi fare quell'altro. Dice riduciamo, riduciamo. Capito? I primi sono loro. Quelli che fanno parte di quelle situazioni lì. Le prime sono che cercano di evadere il fisco. Posso essere un attimino di bianco, vediamo se è rientrato Falchetto o se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti sul 21 chi vuole entrare. Così non nessuno si lamenta che non abbiamo fatto bianco. Il problema è maggiori evasori fiscali italiani e nel mondo sono i petrolieri e i banchieri, che sono quelli che effettivamente se li portano via i soldi, li portano all'estero. Tu già sappi un piccolo artigiano che magari non ti fa una fattura, subito lo esci in giornale, lo guardi a pezzi per qualche centinaio di euro. Quelli che si portano migliaia di miliardi, tipo come facevano i signori finanzieri, quelli grossi, parliamo quelli tipo ex padroni di banche, cose del genere, tipo Calvi e gente del genere, quelli non possono, non li cerca nessuno, perché sanno come fare. Gente del sotto, li senti Mario? Capo, a me mi è sembrato una radio, hanno schiacciato la portante, c'era una radio sotto. Ma comunque, quello che voglio dire io è che loro sono peggio degli altri, perché io mi ricordo quando c'era stato quel clamore là, quella donna che era andata dal figlio per farsi fare la permanente, e i finanzieri erano fuori a aspettare, gli hanno chiesto lo scontrino e gli hanno detto guarda, era una cosa che se uno avrebbe ragionato poco poco avrebbe fatto un fosso in terra e si sarebbe sotterrato. Quando mai? È come che per dire venga tua madre, c'è un graffio nel paraurti, io faccio un'ipotesi, tu gli metti appena appena di coso lì, e cosa deve fare la fattura? Gli vedi una casa, ma tu vai, la macchina è a pusso. Cioè cosa ti devi? Ti scendi già perché hai fatto un graffietto alla vettura di tua madre. Ma che vanno tutti quanti ammazzati, cioè si attaccano proprio alle fesserie più assurde. E da voi è disogura carriola invece, può scendere nella fuori e nessuno li zecca. Però io parlavo non finanzieri diciamo forse dell'Unione, finanzieri finanza, parliamo gente di tipo quelli, io per finanza intendo quelli che giocano in borsa, gente Gussimi, che vanno di là, tipo cosa ti posso dire, a livelli di coso, di Agnelli, quella gente di lì, Parmalat, Tanzi, quella gente lì, io parlo intendo per quelli finanzieri, non intendevo finanzieri questi. Queste le forze dell'ordine, purtroppo da tutte le parti ci sono le persone poco intelligenti in tutti i sistemi. Molte volte, come dici tu, si attaccano alle pesserie e magari Guido esce con una macchina col Ferrari testa rossa e un urlatorente, quello non lo cerca. Purtroppo ci sono anche quelle cose. Non sai chi avrei crepato forte, Mario? A quelli falsi invalidi, gente che ne approfitta, che sta facendo morire l'Italia, perché dite su, non so se ci sono, se sbaglio, per dire, non vuole dire un'immagine sbagliata, mi sembra che erano il 33% degli invalidi sono falsi in Italia rispetto alla percentuale, al 100. Sì, ma l'hanno dimostrato tantissime volte, capito? L'hanno dimostrato tante volte. L'ultimo, adesso non mi ricordo cos'è che era successo, era fuori parcheggiato nella macchina leggendo sul giornale. Adesso non mi ricordo come sia andata, perché l'hanno fatto vedere in televisore. Lui pigliava la pensione di Cicchi e lui la leggeva su un giornale, ha rubato la macchina. Sì, l'ho visto anche io a Studio Aperto, c'è una notizia. Ieri per dire a Studio Aperto non hai visto quel tipo di una scuola superiore, un preside. Certo, è una cosa da arrestarlo, proprio quello che è arrestato in flagranza del reato, dicendo il diploma non ti preoccupare, qua ci sono già le domande, tu devi, basta che vieni un paio di volte così, tanto a parte vedere, le risposte sono queste, fai modo di sbagliarne qualcuna, se non altro qualcosa, c'è cioè, quanto costa, qua costa intorno ai 3.000 euro, ma siamo sicuri che non ti preoccupare, tu passi tranquillamente. mi dice facciamo quale fotocopia di questa, questa, c'è anche un preside di una scuola in napoletano. Ma sono tutti scandali che si sanno, perché si è sempre risaputo che i soldi fanno la guerra in parole povere, cioè quando c'è giro di soldi si muove tutto quanto, perché a loro basta che si riempiano la tasca. Cioè adesso immaginati un preside che faccia una cosa del genere e metti che ne faccia passare mezza classe per ogni classe di un liceo, di una qualunque cosa, quanti di nasce buone in Musciacara. Ma sono loro, questi non erano lui, sono gente tipo vado io o tu, vai, dicevo, mi sono di non ti preoccupare, io te lo faccio a me, senza aver frequentato niente, dice devi portarmi un certificato medico in modo che tu risulti che eri malato in quel periodo, ti puoi scrivere anche adesso mi, dicendo che eri malato e per motivi di salute non hai potuto iscriverti entro i tempi, tutto si è aspettato tutto alla lettera, non l'hanno fatto vedere in faccia perché l'hanno mascherata, era la telecamera, ma quello adesso se entra in mano alla finanza non va di nuovo, e perché le patenti false qua Sassari, non so, non ci facciamo i numeri, non si fa niente, queste truffe alla motorizzazione, queste autoscuole che gli dava l'Irina e gli dava la patente pronta. Ma io qui di Sassari non ne so, so che c'era stato un giro, che c'erano un bel patente, ma non false, no. Patenti, diciamo così, date in agevolazione, così, capito? Ne ho sentito tantissimi, perché per farti la patente falsa dovevi già conoscere l'ingegnere, dovevi conoscere quello, dovevi fare quell'altro, e c'erano tante magagne. Però ne ho sentito, ma già da un bel tempo fa di questa cosa qui, solo che io non ho mai dato peso, perché a me, grazie a Dio, mi hanno mandato anche a revisione, e quando sono andato a revisione c'era l'istruttore, cioè l'esaminatore, non l'istruttore, che gli ha detto a quello là, quando uno è preparato, vedi come si vede che risponde subito, ritorni alla prossima puntata, e ce l'ha mandato. E io ci sono rimasto male, perché siccome io ho il vocione, quello là mi sentiva, perché erano due scrivanie, una a fianco all'altra, ed eravamo una quindicina che eravamo tutti quanti lì per revisione, e poi questa revisione più che altro era per un dispetto, perché se c'era una da mandare a revisione era la parte avversa, perché se ti ricordi via San Paolo uscita per Alghero, prima non avevi la presenza, ce l'aveva quello che scendeva dai giardini, diciamo così, da Santa Maria, eppure mi ha dato la colpa a me. Vabbè, gli dite che mi negona e come ti devi dire quella da faccia, però intanto la colpa è da me. Ho capito, aspetta che c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, chi è? Buonasera, sono per questa, buonasera a tutti. Ciao Salvatore, aspetta, ma non è di tu Salvatore, era una sovramodulazione sopra di Mario, un po' più forte di lui, chi era che voleva entrare? Se ti vuoi colpire importante Mario quando stavi parlando tu, non volevi, fa anche tu sì. No, aspetta, forse io che stavo provando a accordarmi e non me ne sono accorto che era sopra c'era Mario. No, Salvatore, non puoi essere tu, Mario qua arriva a 9.30, tu sei più basso, sei 9.20, era un segnale oltre 9.30, chi c'ha quel segnale qua o è molto vicino o c'ha potenze grosse, no? Non eri tu assolutamente. Comunque, ciao Salvatore, ben sentito, cosa volevo dire? A te rilancio a Mario. No, oh, sono rientrato, buonasera a tutti di noi. Comunque, ben entrato, ben sentito, la mazza che ti ne varia, mi dovete chiamare ieri per farmi sapere, e invece una pietra buttata nel pozzo. Stasera ci ho provato io a venire, però c'era un camion grosso che non si poteva manco passare, e ci ho rinunciato, me ne sono andato. hai ragione Mario, me ne sono dimenticato, ero una giornata mia, la sto arrivando adesso, sto arrivando, una giornata un po' campale, quindi un po' di qualche problemino, dai, adesso domani vedo un po' di trovare il modo di inserire il mezzo, dai, domani guardo, mi sono dato alcuni problemi. Ok, purtroppo non riuscivo a prendere, invece vabbè, sono le robe non qua e sto appena rientrando. Ok, dai, riprendi, vabbè, non so che ci sia altro, fai girare per tutti. Grazie Luca, però io sento sempre quando sta parlando Mario questo incontro importante. Chi è? Avanti, chi vuole entrare? Ero io, te lo sto facendo provando, ero io per vedere se stavo uscendo. No, stavo parlando adesso, in questo momento, che stava parlando Mario adesso, non prima. Non credo che sei tu perché non ce l'hai il segnale così forte, è un segnale ancora più forte di Mario. Mario qua arriva a 9.30, perché come parlava davano un paio di colpi, sentiva qualcuno parlare adesso. Aspetta, no, però Mario, fai un passaggio. Ehi, vabbè, è un macello, c'è qualcuno sotto di te, sotto casa tua, anche se no, boh, non so cosa dirti. È Salvatore. Ma sei parlato sopra, Salvatore? Papà, stavo provando, ti dico di sì. Ecco, qualcosa l'ho sentito, potresti essere anche tu allora, no? Ma tu vai a prima, ma poco fa che lui stava parlando, che ti stava salutando, ci hai parlato sopra. Sì, non mi sono accorto, stavo provando a accordarmi, stavo parlando e non mi sono accorto che stavo accordandomi, dopo l'ho anche detto. Sì, ma no, non lo so, ma forse non è che mi senti, mi passo sopra, magari è la modulazione che senti. Avanti, comunque qua passa Mario, Sabato, ma proprio ti niente, vai Ica. Ok, buonasera a tutti, sono rientrato, ciao Salvatore, ciao di nuovo Roberto, Mario e Luca, non so se c'è qualche domanda, avanti Salvatore. Ciao Claudio, ciao Luca, che mi passi Mario, ci mancherebbe, attaccato a lui Mario, però poco fa io per sbaglio stavo accordando e sentivo a me Roberto, non è che mi sentiva leggermente sotto, così Roberto. Sì, ma scusa un attimino, ci credo, non ne dubito, però quello che mi meraviglia è che tu c'hai 10 dB in meno di Mario, che se riusciva a sentire a te mi pare un bel strano. Ah, facciamo con la prova, Mario, via avanti. Ma cosa vuoi provare? Che a proprio c'è l'anguria, buh, non le fa nulla, dai, non ci sono problemi. Oh, cosa vuoi vedere? Vedere se tu passi, se non hai aumenti un bel watt, se no non c'è nulla da fare, mica. Sabato, dimmi. Allora, si sente qualcosina nel momento di pausa che non parla Mario, se no ti schiaccia, però è vero, c'hai ragione tu, quando lui non parla, nei momenti di pausa, si sente appena appena la voce tua sotto, figurati quanto spingevo la radio, e che te ne risalendi per curiosità? Oh, io non ne ho, lo sai che sono escluso, non ne ho, anzi, non ne ho mai sbloccato con questo, sempre quello che dà la radio. Dico, è dato piena potenza la radio. Salvatore. Dimmi Ica. Quella lì è quella che ho fatto avere io. Ma sempre quella, sempre tenuta gelosamente pulita, sempre questa. Sono contento che le radio vedo io, sono sempre a doppio. Ma veramente è bella, ma forte quasi 9.25 abbondante. Vabbè, ti ricordo, sono davanti a Mario 9.45, 9.50. Dipenderà come si stabilizza, però sta tenendo tutti magnificamente bene. Quindi qua praticamente siete tre, tutte e tre state utilizzando la radio che ho dato io. Sì, Claudio, sì, stiamo utilizzando tutte quante quelle di quelle che hai battezzato tu, diciamo, da. No, guarda, non ho mai attaccato niente, è questa, come ci ho messo solo, prima la usavo con le, il microfono della Nikon, prima abbiamo operato con l'MC60, basta, non l'ho più toccata. È favolosa, ascolta, ho toccato questo microfono. Con le scuse a Roberto, Luca e Mario, non è che per caso hai in più un SM20 tu? No, SM20 no, e ce l'avevo, l'unico che avevo mi sembra che l'abbiamo scambiato, te lo ricordi Oka? Sì, no, ce l'ho sempre quello che avevamo scambiato, no, perché ho ripreso un'altra radio Icom e quindi volevo mettere l'SM20. Vabbè, adesso darò un'occhiata su qualche sito di qualche radioamatore, vediamo se riesco a procurarlo. Questa è la cosa allucinante, semplicemente, 180 euro più il trasporto costa. Per una radio dish, allucinante, cioè sono saliti di prezzo questi SM20, una cosa impressionante, costa più dell'MC60, è nuova e nuda di microfono, è completamente come estetica l'MC60 con la Caparelone. Ok, non cambia il cambio. Ma io non ho anche l'SM20 grave, non è brutto come microfono, è bellino. Comunque l'MC60, non c'è niente da dirle, è un signor microfono, ultimo, ma neanche l'MC85, non mi piace, non ho visto, l'unico è il 60 e basta, cioè, che va bene per questo tipo di radio, andare, non so chi ci sia rimasto, Mario, vice Salvatore, poi, guarda, io rilascio a Roberto, poi dirà a lui, mi dirà lui che c'è la ruota, prima ci ho spostato prima, vai Roberto. Si è rovinato tutti, adesso vediamo se per caso è entrato Falchetto che ha detto era al telefono. Falchetto, se ci sei, batti un colpo. Non c'è nessuno, facciamo una chiamata generale sul 21, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no facciamo riprendere a Salvatore che poi farà girare per Mario. E tra le canale 21 che vuole entrare. Vai Salvatore. Non c'è nessun altro. Capito Mario, ti chiamo e ti fisso l'appuntamento, così lo vediamo questa perdita. Oggi era impossibile, veramente. Mi ero fissato di fermarmi 10 minuti, ma non ce l'ho fatta. Ma. Ok, complimenti, che radio stai usando? È una bella radio, Una 48 modificato, Salvatto. Ma che microfono c'hai? 3D+4. Complimenti, sta uscendo bene, è un bel segnale, è una bella radio. Ti posso dire che forse è una delle più belle che hai avuto. Lo so. Ti ho messo la capsula del telefono, perché la faceva prima non andava bene, usciva a cupo. Andava bene, dai, sono contento che esco bene. Sperando che non distrugga nessuno, ecco. Ma poi è bello che c'è i picchi positivi, c'hai alti, questo c'hai, arrivi 9,5 e c'hai il picchio a 9,15. Come andare allora? Quanto fate? Stai andando bene, veramente bene. Ok. Robe, non ce l'ho fatta stasera, mi neanche a passare a te. Quanto qua c'è il 9,20 pieno tu? Oggi c'è favorevole a me, cosa volete che mi dica? Io non ho toccato niente, è sempre la solita cosa. Come venti qua? Ma che parte stai usando tu? Aspetta, adesso te lo dico. Aspetta, Allora, esattamente sulla scala di 250, 30 watt sto usando 30 watt. Strano. Che io sia 9,5, portante muta e mutato 9,15, tu sei 30 watt, 1,50, ma c'è lo smicastarattolo. Grazie, non lo so, ma facciamo i controlli, ci danno quasi sempre uguali, ci danno. Aspetta che te lo controllo io, vabbè, Pascal 2,50, 50, sì, 30, aspetta, sì. Con un picchio da 50, muta 30, picchio da 50. Sì, lui a me, dai. Fai, ho subito male il segnale. Fai, quasi, ma ci manca un pelino, 9,20, modulato 9,20, capito? Intervengo io un attimo che vi dico una cosa. Vai. Allora, Luca, la differenza di segnale te la spiego io. Guarda. Allora, il 44 è tarato per avere S9, ci vogliono 100 microvolt, mentre il 14 per avere S9 ne bastano 50, per cui c'è la differenza di 10 dB, chiaro? Aspetta, poi abbasso qua. Allora, il problema è questo, che tu dai 9.35, vabbè, 9.30, com'è il mio segnale? Guarda bene, 1, 2, 3, prova, la vai. C'è più lenta, con i picchi positivi. Contento ci vuole protetto con i picchi positivi. Quanti watt stai usando? Io? Aspetta. Ma l'importante stai parlando. Aspetta. Saranno su 18 watt. Tu pensi, 18 watt, no? 18 watt, sei 9.30 picchi positivi anche tu, a 35. Io sto usando 50 e sono 9.30 picchi positivi. Siccome sono radio che io ho già usato, compresa anche quella di Mario, non dovete mai guardare l'importante, dovete guardare il parlato. Infatti sì, misurano sul parlato con quelle radio, perché sono tutte radio modificate. Sapete benissimo che sia 440 che il 140, insomma tutte, 430 che io ho, il 140, sono radio modificate per la M, quindi la misurazione di watt si fa sul parlato come che sia in banda laterale. Infatti in banda laterale la misurazione si fa sul picco massimo di modulazione, quindi uno fischia, guarda il picco massimo di modulazione e dice sto andando a 150 watt. La stessa cosa si fa in AM con questa radio, perché essendo modificate è utile che tu mi dici ho 20 watt di cosa, di portante, guarda sul parlato. Quindi Gianluca ha capito un po'. Sul parlato, voi state andando sia Luca che Mario, non lo so, ma Mario so che tiene sempre la portante 10 watt sul parlato, c'ha sempre 40-50 watt anche lui. Si misura sul parlato, sul fischio e sul picco massimo di modulazione. È lì che la potenza la dà quella radio, perché se tu lo metti a 10 watt sul parlato, abbassi il minimo di 10 dB, sicuramente. Vai. Mario. Già bene. No, io il segnale è sempre come mi hai detto di tenerlo tu. Su 10, punto fermo, e è proprio al centro di 10, tra l'1 e lo 0, portante muta. Poi quando parlo, giustamente sale, a me la lancetta mi sale sino a 9.20. Ecco una bella abitudine, come questa anch'io. Allora l'importante, io sono 15 watt, 20 watt sul parlato, sono 70 watt. Voi immaginate da 20 a 70 watt, quindi infatti io sto andando con 70 watt, non le posso dire, sto andando con 20 watt, 11 watt, non sul parlato, la mia radio sta erogando un wattmetro, sta erogando 70 watt, e 70 watt sono per credere a tutti. Ci ho fatto una domanda, ma te l'ho fatta per la tele, 14 o 44? 44, 44, tu mi quelli che sono stati appresso, mi hai chiamato, vieni che me l'ho portato! Vero, sì, io e Roberto ci abbiamo 44, vero. Quello che c'è Nobi è il mio primo 440, guarda. Ero molto affezionata a quella radio, è andata sempre di macchinata, la prima radio che mi ha modificato QMW, Carlo di Chianamonti, XCH23 di Chianamonti, per chi l'ha conosciuto. Veramente è una bomba. E poi da lì abbiamo iniziato a modificare tutti gli altri, 140, C80, ma è forte anche quello che c'ha Franco, C80 che ha Franco. Anche quello era mio, mi era rientrato da un radioamatore di Porto Torres e poi l'avevo dato a Franco perché voleva provare il brivido del C80. Ma molto bene, ma sono contento di avere radio che io penso anche orientamento, mi sono fatto un subumanco quanto una giurato tra Sassa e Porto e Salghiero, non mi ricordo manco più. Però adesso mi sono ricordato, praticamente siamo in quattro e tre state usando la radio che ho usato io. Va bene, contentissimo. Vai Robby. Oggi l'ho visto, sono andato, non ce l'ho mai andato, diciamo, in casa di Natalino, per altre cose sono andato e mi ha fatto vedere il suo, ma il suo è molto più vecchio del mio come concezione, cioè come tipo di età, non è così, Nicola? La tua è la prima serie, la sua è la seconda serie, cioè la prima, seconda serie, la sua è la prima serie. ma non cambia assolutamente niente. È una grande radio anche quella, funziona molto molto bene, come i 940 che facevano prima, capito? C'era la prima, seconda, terza sinistra, cioè c'erano le schede dell'anno di produzione, niente in particolare, però la radio è uguale, non cambia assolutamente niente. Io ho una seconda serie del 430, e rispetto alla prima serie è molto più avanzata, nel senso che ha una ricezione un po' chissà, perché come le macchine, no? Voi mi insegnate, sia tu e Salvatore, come funziona il sistema sia di motore che di macchina in se stessa. Come c'è una prima serie, per dire, di Fiat, diciamo era un difettuccio, nella seconda serie cercano di correggere quel difettuccio, però io le ho avute tutte le serie dei Kenwood, posso dirlo tranquillamente, dimostrabile con fotografie, certificazioni, io ho tutto su una cartella dove ho tutte le radio che ho avuto. E ti posso dire che tra le prime, le seconde, ma anche le terze serie, ho avuto anche la terza serie 940, non cambiava assolutamente niente, magari c'era qualche rumorino, qualcosa in più che notavi rispetto alla terza serie e non rispetto alla seconda serie, il problema era quello, mi roba. Sì, no, l'ho visto, ma anche come colore mi sembra leggermente più sbradito, diciamo, forse perché il suo è molto più vecchio del mio. Il mio, se lo vedi frontalmente, è nuovo, non c'ha un segno di usura, non c'è niente. Mia radio, io prima di usare sia l'Israeler che il potenziometro mi taglio sempre le unghie. È una battuta del cacchio, però è così. Bisogna stare molto attenti con i frontalini di quelle radio, bisogna trattarli sempre con cura e sempre con cose, perché se sbagli poi ti si graffia, ti si fa. Io faccio questo 440 che nunca ho visto, l'ho comprato da un rimatore di Faenza e ti posso dire che ho dovuto fare l'ampliamento praticamente dell'M, perché non era neanche aperto il diodo per la M e mancava anche il decimale, quindi non era 00, era 0, adesso è 00, di quanto era nuovo, mai usato, proprio mai usato. Ok, Luca, te poi vai per Mario, vai. Luca. Palletta. Non lo vedo, ma mi sembra che stia stando al computer, riprendi tu Mario, vai, non fa niente, giriamo così, non c'è problema. Da pagata, ma io sono un televicolo, sempre franchendo, da un angolo all'altro. E così è, no, la radio quando va bene, va bene, non c'è niente da dire quando va bene, quando va male purtroppo sono dolori, insomma dei denti. Oh, questa qui io, da quando l'ho presa, è sempre ferma come l'hai lasciata tu. Mi saranno ancora ripronti due, legando a toccarvi tu, a chi io non li tocco mai nuda, io uso solo la mano per girare i canali. Facciamo entrare a Salvatore, avanti Salvatore. No, ha ragione Mario, bisogna trattarle bene. Poi Claudio, guarda, tutta la radio che mi ha dato erano nuove. Io prima c'avevo il 140 policusica, però c'è una differenza, ho sentito una sacca differenza, soprattutto in ricezione. Io 440, guarda, per me non va troppo bene. Ripeto, c'è una tentazione, come testa Lucia l'altro giorno, che mi hanno offerto un DS2000, c'è una tentazione perché è bello esteticamente, ma forse fa molto meglio il 440 per quello che facciamo noi. Sabato, se prendi il DS2000 tu hai tre pezzi, io l'ho avuto e ho fatto la stessa pazzia, oddio, pazzia, sai, sono quelle prove che vuole fare un radioamatore, un CB, chiunque sia amante della radio. Io avevo versato, anzi, bugia mia, ho dato il 440 a Roberto, che è qua presente, e avevo aggiunto chiaramente differenza, non se ne parla, quando l'ho preso io, il DS2000 era appena uscito, mi pare da 3-4 mesi, e costava 2.700 euro. Quindi avevo fatto quella pazzia di prendere il DS2000. Beh, tra Riffa e Raffa mi pare che sono riuscito ad usarlo 2-3 volte in onda laterale, basta, della M non se ne parla, perché la M ci sono un sacco di modifiche da fare che non sono molto facili da fare, devi portarlo tecnicamente a chi veramente lo sa fare, quindi o mandarlo al centro assistenza o qualcuno che sia capace, perché è tutto completamente digitale e quindi lo usavo praticamente solo esclusivamente in VHF e in UHF, perché un quadribanda è in 50 mega e tra l'altro quando l'ho preso io il 50 mega non ci dovevano ancora assegnati come frequenza, ce ne hanno assegnati dopo e quindi niente, ho detto anche ho fatto una pazzia allucinante, cioè non riuscivo, riuscivo bene come adesso, come riuscivo sempre normalmente. E allora guarda, l'ho rivenduto e ho perso 700 euro, ho venduto 1000, cioè 2000 euro, ho perso 700 euro in giro di 6 mesi neanche, perché purtroppo l'usato è così, sia di radio che di tutto il resto è così. E ho deciso, ho giurato che mai più prenderò un digitale per parlare in AM, come presi allora il 450, l'850, avevo fatto la pazzia elettronica del TSC 2000. Però sulla parte AM, FM e anche in banda laterale per l'uso che ne facciamo noi in generale, io questo lo uso anche usando il 430 in 10 metri, ma lo alterno anche con questo. In AM non ce n'è, solo razza che modo, ma analogica, una solo analogica, Salvatore. Claudio, dimmi. Un pentimento già ce l'hai, che infatti a me mi piaceva troppo, se lo avessi il capitale già lo prenderò, già lo comprerò uno di quelli, 9,40, a me mi piace troppo come fa. Dunque, ti rispondo sinceramente, è un pentimento, oddio, sono radio, come, non mi sono pentito, ma mi è dispiaciuto sia per entrambe, per 9,20 della Iovis, una grandissima radio, ma io sono abituato a parlare in 27 con questo tipo di modulazione, lì non riesce a tirarmi i piedi, anche 9,40 si assomiglia molto come timbrica, 9,40 non c'è scritto di dare i picchi positivi o niente, 9,40 da 30 watt in AM, subito 30 watt va in negativo, cioè non c'è scritto, non c'è nessuna modifica che si possa fare. Diciamo che è una grandissima radio per quanto riguarda l'uso amatoriale, in banda laterale, in FM va molto bene, ma in AM non c'è scritto di far andare, tant'è vero che io ce l'avevo, lo usavo solo esclusivamente in banda laterale, capito? Forse potevo anche fare qualche passaggio ogni tanto anche in AM, però solo esclusivamente in banda laterale, vabbè. È una radio nata per fare quell'uso come tante altre, l'unica che si poteva modificare, che siamo riusciti, sono state delle modifiche approvate, attestate da un sacco di amatori, era l'apertura appunto di diodi per farla andare in AM, questo tipo di radio, quindi un'esperienza che ho avuto e che ho provato e quando ho preso, ho detto che cosa avete comprato, una radio mi dà di 20 watt, ho 20 watt e uso un baracchino, e invece constatando, guardando, parlandone, allora che io ancora pirata, non avevo manco la licenza, parlavo le faccende, dice ma guarda che stiamo uscendo le modifiche per fare l'apertura anche della M su 430, allora avevo 430 e che c'ho ancora, e più nuovo al 440 tra l'altro, e ci facevano queste prove, vabbè, però constatate che le radio che possono andare bene M sono solo 140, 180, 440 e 430, altre radio non c'è, guarda io c'ho anche l'ICOM, ho il quadribanda dell'ICOM, esce benissimo, ma modulazione come questa non c'era nessuna radio, in AM. Ok, ma avanti di nuovo, Salvatore, per far girare. Sì, no, volevo chiederti qua, ma ecco, a parità del 440, del 140, la ICOM e la IESU non ha fatto niente, cioè un parallelo, ecco, non esiste una radio che sia simile ecco, al 440 con modulazione, ecco, soprattutto. E adesso si ha fatto una grandissima radio, si chiama FT450, la IESU, non so se l'avete saputo, ma la Chiamo non ha più costruito, non ha più costruito radio perché ha passato il marchio di costruzione, non il marchio suo, alla IESU. La IESU sta praticamente etichettando con il suo marchio, quindi IESU FT450, che è la stessa radio che faceva la Chiamo, quindi il TS450 oggi viene chiamato FT450 perché è della IESU ed ha una grandissima modulazione, è tutto digitale, c'è la Massimiliano Archimedi, l'ho visto, è una bellissima radio, molto bella, un display allucinante, celeste, è grandissimo con queste misure tipo 910H, tipo quelli che fa la ICOM con praticamente il display bella. Sta facendo sia quello lì, e poi ha fatto anche l'850, che è molto bello lo stesso, però sempre io ESO. Qui ecco, qui è, infatti il marchio che è venuto che fa sopra Iaiso, ma il microfono qual è Iaiso? Ho sempre il MC60 marchiato Iaiso. No, il 60 è andato a morire, adesso praticamente l'MD100 che è tipo l'SM20, però uguale, guarda, tu prendi l'MC60, tutto nero, col piantone uguale così, il downer anziché averlo davanti come ha l'MC60 ce l'ha sotto il piantone con lo spostamento, è tipo uno driver così. Capito. Ma guarda, c'è anche le, come si chiama, la pianta di Borrore, c'è le 450. La correttore incorporata uguale al 440, solo che è nero. La correttore incorporata, la pianta sino a 30 dB e il amplificatore sino a 30 dB. È una grandissima radio, molto bella. E costa una stronzata. Quanto viene per il carro, sai? Uva costa 1.100 euro. Non sai quanto ne vogliono del TS, questo TS che mi hanno offerto, okay. Questo c'è la scheda del 1.200 anche, è quello nero, è la serie Bulk, cioè HR, non mi ha detto, non lo ricordo, e vuole 1.200 euro. Del 2000? Questo 2000, sì. Il TS 2000 non è nero, è grigio, leggermente più scuro, come l'850, leggermente più scuro, e allora il frontale che è appena curvo, ma è tutto grigio, è grigio più scuro della serie 440, però è grigio, non è nero. Fabio, dimmelo. No, fanno la serie limiti, esiste la serie dei limiti, quello nero, in serie limitata lo fanno nero, il VX, quella serie, ne hanno fatto di meno di esemplari, esiste anche nero comunque. Sì, la serie limitata sì, era già uscita quando l'avevo preso io quello, cioè costava una barca di soldi, c'è stato un calo di prezzo sul TS2000, ora io non so. E molti TS2000 e gli amatori sono un po' lamentati, non so perché, io non è che ci bazzico molto una HF, sto più in voi in uso, insomma, mi mando alterna, però sento che qualcuno sta tornando alle vecchie glorie come gli alimentatori, no? C'è stata una grande delusione per gli alimentatori switching, perlomeno per quella delusione facciamo noi, infatti ho tre PS50 che sono 50 ampere, stabilizzatore proprio per alimentare bene le radio come devono essere alimentate, e sono esclusivamente la Kenwood, cioè non li uso più di alimentatore switching, anche che siano da 100 ampere, perché con l'andare del tempo la scheda, quanto dicono i tecnici, io non sono un tecnico, si esaurisce, quindi ti crea problemi alla radio, abbassamenti di tensione eccetera, e allora stiamo tornando un po' tutti agli alimentatori stabilizzati. Sì, è come sta dicendo Roberto, la serie sono limitata, sono limited. Però scusa, se costa, mi sta chiedendo 1.200, cosa vero che mi sta dicendo che c'ha, pensa a farlo anche perché c'ha problemi, okay. Conviene direttamente prendere la legge 450 come ti stai dicendo tu, almeno sono sicuro che vado sulla radio che funziona bene. Ok, riprendi l'anno. No, io mi ricordo una radio che era tutta quanta digitale, adesso non so se Claudio si ricorda, che poi non credo che la stiano più manco utilizzando. Ti ricordi l'ultima radio che aveva comprato Pierluigi un po' di tempo addietro, che era, mi sembra, un TS2000, che era tutto digitale? Lui parlava in AM. Fumare la vista a casa TS2000, tra l'altro ce l'avevo forse qualche mese. Sì, ma parlavo anch'io, ma non aveva questa timbrica come il 440. Usciva, per carità, esce, non è che non esce, ma era una modulazione molto stridula, una modulazione molto, non è chiara, bella come piace a me, ecco. Non sono mai riuscito a regolarlo, mai, mai. dei menu, dei sottomenu, delle accessioni particolari che avranno equalizzatore incorporato, un mare di cose, una cosa allucinante, quindi sai, non mi ero tuffato, ma vaffanculo, lo vado via, mi ero ripreso il 440, questo è il quinto 440 che prendo, adesso basta, lo voglio tenere, anche il 430 sarà troppo molto bello, l'ho fatto avere Walter, bellissimo veramente, lo uso i 20 metri, molto molto bello, e ti dico come ricezione, se ne mangia parecchie le radio, vediamo un po' se è rientrato Luca, poi Luca se si è rientrato, vediamo un po' se c'è anche Falchetto, non so se è qua, se si è spostato, non so, a te Luca. Poi ci sono, mi sta ascoltando Luca, c'è un buon freddo, cazzo, allucinante, però mi sta salvando la febbre. La febbre? Ragazzi, sono un buon freddo. Vabbè. Sì, mi sono fatto. Beh, come che è andata a posto? Ho voluto avere delle informazioni perché l'abbiamo scesa da quell'amico mio, quel meccanico, per vederla, dice se ce la faceva la guardava stasera, speriamo che non sia niente di grave, perché potrebbe essere grave quella questione. Meno male, si era vicino, dai, si è avvicinato. Anche se ti capita già camminare, direi una cosa sulla distribuzione, ne fa poco di danno. Penso che stavo pensando che lui mi sembra che doveva passare dalla Cina a cambiarsi, perché mi sembra che avesse accennato, spero che non si sia trascurato, non è accompagnato a casa. Beh, scusa, mi ha distratto mia figlia, cosa mi ha detto? Se ho fatto un attimo di fa. Mi sembra che doveva cambiarsi la cinghia, mi stava dicendo, che spero che non si sia trascurato, qui mi ha accompagnato a casa un trovativo. Allora, l'ho portato prima dal meccanico già vicino a dove sono io, perché io appena venuto l'ufficio ho detto roba e sento molto un rumore strano, ho detto ferma tutto una taliga qua, secondo me è roba di distribuzione, proprio un rumore di ferraglia, ho detto tipo qualche cuscinetto o qualcosa del genere, ho detto ferma tutto, e c'era un amico mio, questo meccanico, guarda caso, è capitato in quel momento lì, ho detto guarda, se me la porti le togliamo la cinghia dei servizi e vediamo se dipende, se il rumore scompare il problema è sui servizi, diciamo sull'alternatore, se invece continua a essere il problema è su qualche cuscinetto della distribuzione o qualche tendicinghia o cosa del genere, per cui ho detto blocca tutto, anche se ti salta la cinghia fredda. Allora a quel momento lì abbiamo chiamato prima te e mi aveva detto purtroppo c'avevi dei problemi, allora ha detto dai andiamo da questo qua, l'ho accompagnato da questa persona qua, quello che ti avevo detto io, e poi lì l'ho portato a casa sua e mi ha fatto vedere la sua stazione che non avevo mai visto, però mi ha amato qualche più vicino di me, però beh c'è tanto, sai che c'era anche Bravino che non è venuto in mente lui, vabbè io lo conosco perché era prima vicino a noi, quello che c'è dietro la Renault, ma la Renault che sono io? Dove c'era Renault, quella che ho usato l'ancia. Vabbè, Bravino, ha detto bene, sì, ma non è a livello di questo che ti sto dicendo io. Quello lì, a parte che, vabbè, ci conosciamo benissimo, siamo amici, però questa persona che l'ho mandato io c'ha molta più esperienza. Quello è più specializzato su certe cose, questo è un po' di tutto fa. C'ha dal Mercedes alla Coso, vedi, c'ha quest'Audi che ha spaccato, non so cosa è successo a questo, Claudio, mi chiedo di gatte, un Audi V6, turbo diesel, motore nuovo, un Audi A6, una macchina costa una barca di soldi, si è messo a cambiare la lampadina davanti, questo per quelli che si mettono a fare, non ci è riuscito e ci ha lasciato sopra il coperchio del motore, quel protezione in pratica, tutti quei cacciavitini francesi, Tox, li sono andati a finire all'interno del motore, non se ne è accorto, ha spaccato tutto, ha fatto un danno allucinante. No, non è mia abitudine, vabbè, io ho l'abitudine appunto di far fare cose a chi deve fare, uno perché non ho pazienza, poi perché non sono competente in materia, uno deve fare ciò che le compete, non è mia abitudine, ripeto, io anche con la Smart che è piccolina, però la mia entra solo la Mercedes, spero, però non sono sicuro che mi fanno il lavoro, perché molta gente non è capace e non ne vuole neanche di quelle macchine. C'è un'autodiagnosi da fare allucinante, tutta elettronica, quindi va bene così. Ok. Allora, parlare il microfono, datemi 5 minuti e vado a fumarmi una sigaretta che ho terminato poc'anzi di cenare, ho voglia di fumarmi una sigaretta. a te Mario il microfono. E io lo passo subito a Salvatore, perché mi hanno chiamato anche a me e mio figlio per mangiare, che io sono a casa e mangio con loro, là. Ho 10 minuti e poi riprendo e vi faccio compagnia, tanto vi ascolto. Mario, in 10 minuti mangi? Ma ne hai goduto due, lo metto un colpo. Ma anche io voglio mangiare, allora mi approfitto, anche a mangiare, così magari poi ci risentiamo più tardi tutti. Ok, comunque le ti... Mario, ci sentiamo, ti chiamo domani comunque. Ok, riprendilo bene. Vabbè, io ho già annunciato un panino poco fa, però mi mangio qualche cosa che mi viene di fame, dai, sicuramente non riprendo. Comunque vi saluto tutti, ciao Salvatore, ciao Claudio, ciao chi c'era, Mario e Luca, eventuali amici in ascolto, saluto a tutti. Salvatore, se ti capita domani per quella storia che dovevi fare con lo spray, che cos'era, se c'è tempo, se no ci sentiamo per telefono, ok? Ciao ciao di nuovo a tutti. Riprendo anch'io, perché anch'io faccio in quella ricca, me la mangio anch'io, magari però più tardi. Ok, vabbè, no, domani senz'altro faccio tutto a fare per la squadra, perché voglio poi uscire dalla GBC, se no rimane in terra con l'antenna, se non la prendo, rimane in terra e si marcisce in terra. Ok, ci tranquilliamo eventualmente e poi così salgo. Vi faccio sotto circolare a tutti, Claudio, Luca, Mario che è in QRT e Roberto è stato in QRT, ok. Faccio il passo, Mattia in QRT che me la c'è anch'io, riprende Luca, non so se c'è la gente.